fieri accenti, porti in seco in preda ai venti, perdonatemi pietà, o fratel, pietà, pietà, a che offendere cotanto, ti fu solo sventurato, de chi ne ha la fronte fato, frate, pietà, pietà, e contamini, o frate, pietà, pietà, e contamini, o frate, pietà, pietà, una suora mi lasciasti, che tradita abbandonasti, che tradita abbandonasti all'infamia del disonor. Volontà! Placa il mio furore, per mendace vile accento, per me impugna ed alci me. Parlano per me, qual ne so di vide mai, io mi frustro al vostro piede. Alla macchia del tuo stemmar provasti con quest'arco, questo splende più che gem, sangue intinge di mulatto, e la voi mentite, fare un brando a me, un brando, uscite. Disonore! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!